con Oscar de Summa, autore dello spettacolo L'ospite, una questione privata, a Roma, Teatro Argo Studio, dal 12 al 14 aprile 2019. Oscar, ben trovato. Salve, salve a tutti. Ce lo presenti questo lavoro? Concreto, torna a casa e trova un ladro, riesce a immobilizzare questo ladro che sta svaligiando casa. Lo spettacolo parte da questo momento, cioè non si vede il momento dell'immobilizzamento. E da qui in poi, diciamo, c'è un'escalation di violenza che viene praticata su questo ladro che viene trovato a casa, no? All'inizio potremmo essere d'accordo con questa, diciamo, fargli passare un brutto quarto d'ora, no? A colui che ci ha violato la casa, cioè lo spazio intimo nel quale ci sono le nostre cose. Ma quando questo fargliela pagare, questo fargli passare un brutto quarto d'ora diventa abuso di potere? E il lavoro è tutto su questo limite. E poi con dei risvolti dove noi vediamo che all'interno della nostra società, le relazioni lavorative e non sono quasi tutte strutturate su un rapporto di potere, no? Chi agisce potere su chi. Cioè, lo spettacolo indaga questa linea, questa gestione del potere nelle relazioni. Come nasce? Da un fatto di cronaca, diverso tempo fa, mi ero domandato come avrei presa io, no? A tornare a casa e a ritrovare tutta la mia roba ribaltata in terra, sparsa, sapendo che qualcuno ci ha messo le mani. Era una cosa che mi aveva molto colpito da piccolo, che avevo vissuto in casa, e devo dire che mi aveva creato un certo panico, però ero molto piccolo. Poi me lo sono immaginato adesso cosa potrebbe essere, no? Cosa potrebbe essere quel momento. In effetti viviamo dei tempi in cui, come dire, anche politicamente si mette spesso l'accento su questa possibilità di difendersi, e quindi l'argomento mi sembra da affrontare, il momento giusto da affrontare. Su cosa hai voluto centrare l'attenzione rispetto a questo tema delicato? Soprattutto su due fasi, come spesso mi sta capitando negli ultimi anni, l'accento è portato sulla violenza, cioè noi abbiamo una violenza insita che se non trova delle vie chiare di trasformazione e sublimazione rischia di scoppiare, esplodere quando noi meno ce l'aspettiamo, no? È una cosa che ho indagato con la sorella di Gesù Cristo, ma anche nel Riccardo III, cioè abbiamo quasi sempre questa necessità di trasformare. Se la società non ci mette a disposizione gli strumenti per fare questa trasformazione, chiaramente potremmo perdere il controllo, la gestione. Quindi tutti questi impazzimenti che stiamo vedendo, no? È impazzito, ha avuto un raptus e ha fatto questo. Questa cosa qui mi risulta sempre molto strana. Quindi ho voluto indagare questo aspetto. E l'altro, quello che ti dicevo, è comunque che noi nelle relazioni gestiamo sempre potere, siamo sempre in una fase di potere o sotto il potere dell'altro. Quindi, e qui rientra una riflessione sull'etica necessaria nelle relazioni. In una messa in scena così claustrofobica, quanto è il peso della società? Il peso è tutto nel contesto, no? E Sì. chiaramente noi abbiamo una situazione tipo, quindi abbiamo una persona che lavora tutti i giorni in un ufficio e che però sappiamo bene che questa dimensione delle 8 ore giornaliere più i pasti fuori di casa, come dire, non è per niente naturale e organica. Siamo schiavizzati come nell'Ottocento, chiaramente non più in una fabbrica con delle mazzole, ma davanti ad uno schermo, ma siamo comunque schiavizzati. Quindi sullo sfondo c'è appunto questa pressione costante della nostra società su di noi, che noi facciamo finta di niente, facciamo finta di non vedere, no, non subire, ma in realtà in momenti di grande tragedia come questi, in momenti in cui qualcosa ci sconvolge la vita, questa pressione che noi subiamo costantemente in qualche modo viene fuori e ci rivela una parte di noi. Qual è il percorso dello spettacolo prima e dopo Roma? No, non lo so benissimo perché se ne sta occupando Ciro. In questo caso io ho avuto l'onore e il piacere di fare una cosa che volevo fare da tanto tempo, cioè quello di consegnare il testo ad un attore che stimo e dire fai tu. Quindi è Ciro che si sta occupando di tutto. So che ha avuto questi giorni un giro tra Caserta, Firenze, Livorno di presentazione in prova aperta del lavoro. E che debutterà poi in via ufficiale, credo proprio a Firenze, e da lì poi insomma lui si occuperà di farlo girare. Io spero che giri, perché mi sembra la depressione sia abbastanza attuale. Ci lasci dei riferimenti internet in proposito? In questo caso bisogna rivolgersi a Ciro Matera. Comunque su Facebook Ciro risponde, è sempre molto attivo, quindi lì credo che possiamo trovare tutte le indicazioni rispetto alle prossime due date. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Teatro Argo Studio, dal 12 al 14 aprile 2019 con lo spettacolo L'ospite, una questione privata di Oscar De Summa. Oscar, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo e ciao a tutti.